Europa 24. Ben ritrovati da Laura Bettini per questo appuntamento con Europa 24. Andiamo in onda quando il weekend sta per iniziare, tanti magari vanno al mare e allora è una buona occasione per andare a visitare e controllare quello che succede in uno dei centri della rete italiana per il recupero delle tartarughe marine Caretta Caretta. Sono centri connessi al progetto Tartalife che si realizza tramite il programma Life Plus Natura della Commissione Europea, che ha ricevuto un finanziamento di oltre 3 milioni di euro e poi con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nonché della Regione Marche. Il coordinamento del progetto è del CNR ISMAR, che è l'Istituto di Scienze Marine. La gestione dei singoli centri invece ha affidatari diversi. Quello di Manfredonia, in Puglia, è in cura a Legambiente. Stefano Raimondi, responsabile dell'ufficio aree protette e biodiversità di Legambiente, ci racconta l'esperienza con Tartalife. Il Life possiamo definirlo il principale strumento attraverso il quale l'Unione Europea finanzia i progetti in campo ambientale. Hanno questi progetti, come nel caso del Tartalife, a che fare in questo caso con una specie molto, lo dicevo anche fuori in precedenza, estremamente delicata, a forte rischio, che è appunto la tartaruga marina Caretta Caretta. I progetti possono essere i progetti Life portati avanti da un unico soggetto, i cosiddetti progetti monopartner, oppure come nel caso di Tartalife da un partenariato molto più ampio. È promosso da come ente capofila il CNR ISMAR, la sezione marina praticamente del CNR che ha sede ad Ancona, e poi si giova di un partenariato molto ampio. Qual è la rete italiana, diciamo? Italiana è formata da una rete molto ampia, poco più di una decina di centri, ma lo scopo del Tartalife è, tra le altre cose, anche quello di rafforzare questa rete, per cui alcuni centri verranno creati anche durante lo svolgimento del progetto. Il progetto ha circa un anno e mezzo di vita attualmente e quindi verranno creati anche nuovi centri che si aggiungono a quelli già precedenti, che verranno invece rafforzati. Ma scopo del progetto è anche quello di andare a intervenire appunto su una delle cause di mortalità, che è appunto la cattura accidentale che viene fatta durante le normali operazioni di pesca, e per esempio quindi andando a promuovere nel comparto della pesca l'utilizzo di mezzi di pesca a basso impatto. E parliamo per esempio della diffusione di strumenti quali gli ami circolari, che sostituirebbero i cosiddetti ami a jay tradizionalmente utilizzati in passato, che si è visto hanno un minore impatto sulle catture accidentali di tartarughe, piuttosto che nel caso di pesca a strascico, per esempio, gli strumenti chiamati TED, che vengono messi appunto nella una sorta di griglie inserite all'interno del sacco del pesca a strascico, che deviano appunto le tartarughe, quindi evitano che vengano prese all'interno della rete, senza evitare però in realtà poi invece il normale afflusso del pescato commerciale, che normalmente finisce appunto nel sacco della rete. Ma c'è modo per esempio di evitare magari la pesca in alcune aree particolarmente sensibili? È anche questa una parte di studio? La pesca in Italia è regolamentata ovviamente da normative nazionali e già ci sono delle aree ovviamente sensibili, parliamo di alcune aree marine protette. Lo scopo del Tartalife è quello di integrarsi completamente con la pesca tradizionale, che viene fatta secondo tutte quante le regole e viene rispettata appunto dai pescatori secondo tutte quante le regole vigenti normalmente, semplicemente andando a proporre dei metodi alternativi di pesca che, pur non inficiando la qualità appunto dell'attività di pesca stessa, evitano però di catturare contemporaneamente alcune specie particolarmente sensibili come le tartarughe marine Caretta Caretta. L'ultima cosa che le chiedo è se nel Tartalife sono coinvolti anche paesi stranieri. Nel Tartalife non sono coinvolti i paesi stranieri a livello di partner, quindi di partnership ufficiale. È chiaro che però nell'attività di networking, quindi scambio di buone esperienze, di buone pratiche che tutti quanti i progetti LIFE prevedono, quindi un dialogo, diciamo così, con altri progetti di carattere europeo che hanno finalità molto simili, si metteranno a frutto tutte quante le esperienze maturate anche da altri progetti per, diciamo, capire un pochino l'efficacia di tutti quanti questi sistemi che vengono proposti dal Tarta Life ma anche da altri progetti. Informazioni su dove sono i centri di recupero li trovate all'indirizzo tartalife.eu. È tutto, un saluto da Laura Bettini e buon proseguimento d'ascolto con Radio 24. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.